恶音。 Gnu, gnu, ragno, ragno, castagna, castagna, signorina, signorina, montagna, montagna. 练习。 Vigna, vigna, agnello, agnello. Ogni, ogni, sogno, sogno, signore, signore, ognuno, ognuno. L'insegnante di spagnolo. Il canto dell'usignolo. La lavagna.Senza spugna. Il ragno e la ragnatela. Le castagne della montagna. I guadagni dell'ingegnere. In giugno andiamo in campagna. La signorina viene dalla Spagna.La cicogna, il cigno e l'usignolo sono uccelli magnifici. Ognuno ha i suoi difetti. 谚语 Proverbi. Ogni bel gioco dura poco. Sopra l'albero caduto, ognuno corre a far legna.